Sono ai 10, cambio. Canale 10, cambio. Attenzione, canale 10, cambio, stracambio ancora, cambio. Attenzione, canale 10, cambio. C'è qualcuno? Canale 10, cambio. Attenzione canale 10, non c'è nessuno, cambio. Via, ciao Eugenio. Buonasera. Buonasera Eugenio, anche a te. E bello. Che è bello. Sto parlando. C'è Eugenio, c'è, che stava chiamando. Ehi, buonasera. Basso, lo sento io. Claudio ti sente basso, eh. Natalino! No, non devo fare nulla. Ascolta, mi hai fatto la cura a fare il microfono. Ehi, se gli metto la massa a terra se ne scende di audio. Se gli appoggio solo il filo nel microfono. Datemi un sifone. Infatti lo staccato. Non sta fischiando per niente. Sta andando bene adesso. No, è grande. Ascolta, quanto ce l'hai a tre? Non lo metto a quattro. Papuglio! Così a due. Così a tre. Però aspetta, no, ok. Devo passare. Ho lasciato le cuffie. Così a tre. Così comincia a fischiare, va? Vedi, così non fischia per niente. Se sono dei guettoni, devo mettere i toni a zero, per forza. No, non c'era il zero, il tuo non serve niente, non ne ho bisogno di toni con la radio. Ma secondo me ti conviene usare il microfono normale. Sì, già va bene che così, già mi sento amplificato, non è che non vada bene. Capito? Adesso appena mi sistemo l'altro alimentatore, quello grande, la cosa cambia. Capito? Sparisce questo effetto che... del fischio. Non vuoi fonte se arriva. Quanto sta segnando adesso il caldo? 40, 30? Sono a 30. Che l'ho appena acceso. No, va bene. Ultimamente ha un bel segnale. No, la radio è bella, solo che la vorrei amplificata. Il cazzo di microfono fischia. Purtroppo fischia, eppure qua non fischiava. Evidentemente il mio piano di massa è superiore al tuo. Vabbè. Pazienza. Sì, vabbè, questo è il ricorso di alimentatore più che altro, l'alimentatore qui ci vedo quella attaccata adesso lo arrivo in sistema l'alimentatore quello vecchio, gli metto il punto di Dio di nuovo, collego bene i cavetti, controllo il condensatore eccetera eccetera e poi trovo con quell'alimentatore lì che sparisce questo difetto, perché quando le aggancio io il filo della balsa si abbassa l'audio, si abbassa del microfono, capite? No, non si può fare, perché c'è l'alimentazione diretta, per quello che ti si abbassa, capito? Quel microfono c'è l'alimentazione diretta, non va bene. ma fatti un po' di pulizia lì a domani in quel tavolo, questo può darsi tutto, e metti solo la radio e il microfono, un altro baracchino, fatti un po' di pulizia lì, cazzo, monti in agio sulla scrivania, cazzo. Scusate, ma di parare, chiaro che già faccio un po' di pulizia, vedrai, sparisce un bel po' di roba adesso. Me lo metto direttamente dove c'è la scrivania, vicino al letto. Ci sono anche le valvole, già le ho viste dentro con lo scatolone chiaro, ci sono le valvole del BB 2001, ci sono. Ce ne sono sei dentro. No, ma ti conviene fare pulizia lì a noi, perché c'è troppa roba che sta dando fastidio anche al microfono, sono sicuro. Lì è una bella pulizia, poi il microfono è troppo attaccato alla radio anche. Prova a metterlo da parte, spingilo più in dentro, cioè sta attaccato all'alimentatore, tutto attaccato. Ci vuole spazio, lo sai benissimo, per quelle radio, se quelle funzionano bene, per avere spazio, sia il microfono, lontano dall'alimentatore, da tutto. Se no, quello rientro lì, le radio frequenza, almeno non è che il microfono fischia. E io l'ho usato, non fischiava qua. Lo mettevo a 7, visto che ce l'avevo a 7 io. A 6, 7, manca 90. Invece così lo devi tenere a 2, se non fischia, così c'è rientro di RF. C'è troppa roba, troppo ferro c'è lì. Io credo. C'è bene roba, sì. Allora, vediamo un po' adesso. Questa fa la mano qua. Adesso lo sollevato. L'amplificazione. Adesso. Dovrebbe essere aumentata la radio. Sì, ma di poco. Secondo me pompa di più col microfono normale. Prova il microfono normale. Spiega l'attacco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Microfono normale. Sono 54 watt modulati. Quindi sei andato a finire, che sei tutto pure in frequenza. Qua sono, non ho toccato niente, no? Sono con il microfono normale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sono 30, patate fisse 50 modulati. Buongiorno, Natalib. Come mi ascolti? Bene, ti ascolto, almeno si ringrazia di Dio. Già va bene, già va bene. Meglio così. Almeno posso pompare, già c'è. Pompa meglio di radio anche. Poi vabbè, domani mattina mi pusco un bel po' di roba che c'è qui, insomma, questo tavolo qua. Spazio nella scrivania che ho di fronte, ci butto quel cavo di roba che c'è, che non mi serve, e vedrà che faccio spostando l'apparecchio, esce anche meglio, capito? Noi lascia il microfono normale perché sei una bomba, ma c'è 90, quasi 9 più 30, sì, c'è una tarina, radio super 5, quel microfono lì non va bene, se non metti un po' a posto non va bene, lascia il microfono normale, i watt sono a posto, lasciali così, sei una canonata, no Natali? Eia, è di lusso, Già faccio così. Veramente bene sta uscendo, non avevo mai sentito un microfono normale, io non lo usavo mai. Sta uscendo molto molto bene, non bene, benissimo, alla grande. Meglio di quello là, molto più forte, presente e tutto. Gappa, lascia quello, poi magari ti fai un po' di pulizia lì, ti fai qualche modifica con la scrivania, bene, e ci riprovi, perché quello prende l'alimentazione diretta dalla radio, il microfono, capito? Quindi c'è il rientro di RF, sicuramente da tutta questa roba che va in chimica. dice di tutto, Salvatore, Lester, è tutta quella roba lì sopra, capito? Siamo il fischio, l'ha detto poco fa, adesso invece non più. Vediamo se c'è Eugenio ancora. Eugenio, ci sei? Dimmi! Che c'è il ruolo? Perché? Boh, non lo so. Attavi, Giampiero, c'è la stessa cosa tua, ieri notte ce l'hanno portato, mi ha telefonato Giovanna, mezz'ora fa. E cosa c'ha? Pancreatite. Ai ai, mamma mia. Cazzo, anche diabetico diventa adesso. Boh, diabetico non lo so, comunque ieri sera sono andato a lavarlo e ci ha dato 2000 di fronte, però non mi sono reso conto di niente. No, dopo un po' ho vomitato in terra e è un buco strano, ho visto un'urina che era di colore che più scura, capito, tipo rosso, rimaneva. Finché non è arrivata, ieri notte Giovanna verso le 11 e mezzo, mezzanotte ha chiamato, come si chiama, gli hanno dato il responso dopo che l'hanno controllato, gli hanno fatto la cosa. Pancreatite. Strano, perché mangia normale, non ci compenso come mai gli sia venuta. Ma una vita senza mangiare, diciamo. La settimana da mangiare. Quanto ti sto arrivando io lì, quello Smither che è precisissimo? 9 più 20. Anche tu qua sei 9 più 25, però tu sei aumentato di 5, di 9 più 20 più 25 sei adesso. Ma c'è una bella radio, sto a 940, ti ascolto una favola. E anche io l'ascolto bene, ma sei un 14 quello lì. A me non mi ha sentito il microfono normale, non ci va bene lo stesso. Sì, esce molto bene, ma sì, il 140 di Valerio, molto bella, nuova di Antonello, è perfetta quella radio, veramente nuova. Io lo stesso sto andando con 140, l'ho fatto quando con 430, però con 140 ti ascolto meglio. Devo avere la colonnina più precisa. Ah no, vabbè, qua c'è l'altoparlante esterno, il CP430. Penso arrivi veramente molto bene, Antonio. Bene. E io quanto ci sto arrivando? Là, guarda un po'. Se 9 più 10 quasi. Cappa, siamo ben lontani noi, però. Antonello ce l'ho più vicino, sì. Però tu quando pompi già arrivi forte. Adesso scala che si abbassa la potenza. Stiamo tornando con 30 watt di portante e 50 modulati, come l'ho regolato io, capito? Lascialo così, mi Antonello lo sfrutti di meno e pompa un bel. E infatti faccio così. Adesso domani sacco soprattutto, stacco la cosa la canola pesca stacco, perché sono sicuro che mi fa rientro quella, capito? Vedrai come stacco quella, non fischia più l'apparecchio, senz'altro la canola pesca, anche perché intanto non mi serve. La metto davanti un terrazzino dove la prima in basso e poi si mette la soppartetto, tanto non rende il soppartetto. Invece il terrazzino rendeva benissimo, non capisco perché, è una cosa un po' strana. E io c'ho il mulinello, Antone, se ti interessa, tu c'hai la canna pesca, buonasera. andiamo a pescare, già lunga 7 metri questa canna pesca, capito? Adesso vai la stacco perché non è che mi fido molto, no, lasciarla sopra il palo dell'antenna della TV. E che se fa un colpo di vento forte me la spacca, quindi lascendo il terrazzino, lo attacco la terrazzino con il tanto c'è l'RG 213. Devo cambiare, togliere l'RG 58 dalla mantova e metterci 213. È già pronto quello che sto usando nella canola pesca, così almeno sono anche più tranquillo per le questioni di radio, di rientro di radiofrequenza, ossia che magari c'è anche il cavo vecchio eccetera eccetera. strato che ci sono, faccio quel lavoro, metto la scaletta piccolina, stacco un piede e attacco l'altro. Io ho esercitato Antonello, guarda che bene che sto scendendo. Lo stavo ascoltando, una bella radio. 9:10 stai arrivando Antonello alla, alla K. E Claudio c'è leggermente più forte di lui, 9:20 qua Claudio. Vabbè, sono entrato a salutarvi che tra un po' devo scendere giù a Stintino a controllare una cella. E ma sta facendo col microfono normale lui, eh. Cazzo, c'ha veramente una bella radio. Va bene, avanti Natalia. E va a Stintino, tu vai. E devo scendere a vedere una cosa e poi devo passare anche a casa di quel cane morto di mio cognato. Sì, io non so io dove stai andando, da quelle suore tu. Lì in quella, non era una cantina, era cosa, era una mansarda. Ma ti ricordi, Antonè, quella suora sorda che c'era da che? Già me lo ricordo, certo. Oh, claro, un giorno ho portato Antonello lì a Alghera, la casa del riposo. C'era questa suora che era sorda, Antonello non lo sapeva, guarda. C'era da cavarti sotto delle risate. Se mi l'avevi raccontata a me. Ora, ma lì è d'accordo? Sì, sì. Antonello, Antonello era bianco, serviva la pianta. Hai già un grido. Allora, Antonello, ma con le mani in tasca, sì. Datti da fare, vero tuo? Sì, sì. Ma non mai già capiva il labiale. Il signore Giada, quando arrivava Santa Teresa, era di Giada. E lascia perdere la Maddalena, sembrate che si afferri. Tanto giorno andiamo alla Maddalena a fare un intervento di altri club, Santa Ferri, da Parigi. Siamo arrivati lì senza borsa di ferro, e adesso, lui, ce lo facciamo in tempo. C'è conto, sì. Ah, c'è il mantentore che... Ti vuoi venire in verde, sì. Ma boh. Carità, che tempi che... Va bene, dai, vi saluto. Ciao Claudio, ciao Natalino e ciao anche Antonello. Se coincide ce la riascolta dopo, altrimenti ritenetevi tutti salutati da parte mia. Ciao, dai, che sto scappo adesso, sennò poi un casino. Ciao a tutti. Ciao Fra, ciao, buon tutto. Ciao Fra, ci sentiamo. Buon lavoro, buon tutto. Però Antonello, ricorda di pagare a bere per quella cosa, capito? Via, non c'è problema. Già ti pago a bere, ti preoccupare, ti preoccupare. Stambuchino, capito, è chicco di caffè, eh? Con la mosca. E ho pelo mosca, quello che è, non fa niente, l'importante è questo. Io vabbè, tu già bevi la sambuca, io non bevo la sambuca. Io bevo la birra. Sambuca non mi conviene, se non mi... con quello che c'è fuori, cosa rende? Avanti Natalino, Natalino. Cazzo, c'è solo QRM Santiago 3. Una volta era sempre segnale 9 il QRM, questa volta è basso. Beh, Antonello, credo. Dai, va bene, dai, ciao, complimenti. Bella radio, Antonello, il segnale. Ciao a tutti, ciao ciao. Ciao ciao. Non ci finisciamo qua. Vabbè, Antonello, c'è bene, sono contento, tutti siamo contenti. Dai, ci sentiamo dopo, ciao a tutti, curetti. Eia, ciao, Clara. Ci sentiamo buon curetti, a dopo. Antonello, ti voglio bene, eh? Lascia tutto vicino a tocca a nuda che sei. Il number one, stai uscendo una favola. Non ti ho mai sentito così bene. Non ho toccato niente, no? Ho lasciato tutto come era, come viene tutto. No, sto toccando proprio niente, né vatte né niente. Va benissimo così come sta uscendo. E intanto più scalda, poi si stabilizza da sola, perché la volevo fare io a caldo. No, ma la radio, Antonio, non avevo mai sentito il microfono normale su quella radio lì. Io non l'ho mai provata. Esce veramente molto bene. Bella, forte, pacata, tonalità giusta, vari due in verticale, bella modulazione. Piano piano ti sistemi quell'altro microfono, ti sistemi tutto e lo ritrovi. E vediamo un po' se pompa, capito? Dai, ci aggiorniamo. Sì, capita. Dai, se domani salgo. Stasera non voglio essere io smaltetto a staccare la canna alla pesca. Domani la stacco, così mi tolgo il... tolgo questo problema. E così almeno... Auto riflesso, perché sono sicuro che è quella che fa quel qualcosa lì. Domani la tolgo così vedrà che fischia, non che non fischia più con il microfono amplificato. E poi faccio spazio anche qui, metto l'apparecchio lì nella scrivania, sposto tutto e me l'è fatta. Ok, là. Via, vabbè, Antone, dai, lascia tutto così, adesso a futtidini. Ci riuscirò lo stesso bene. Quando c'è tempo per fare le cose. Ciao, a dopo. E via, a dopo, ciao. CQ10. Attenzione sul binario 10, c'è qualcuno? Catalino Cocuomane. Catalino Cocuomane. Ciao Spagliero. Che di bella. E tu sei Cocuomane, tapparetta. Non c'è nessuno. Tutto tace. Carlo, c'è. Se no c'è istanza bella fresca. Qua si sta bene, dopo la radio. C'è un bel fresco. Dove secondo me le radio è un casino. Lo so, no, qua si sta bene. La tessina fresca, muri grossi. Questa è tutta commentata. Poi dietro il cavello c'è un metro dall'altro muro, quindi tutto commentato, c'è il corridoio, c'è la finestra aperta, si sta bene. A te il telefono. Fai. Mi sembrate sentire a Gianni, tu eri? Luca Magnabosco. Luca non sente nulla. Noi lasciamo da mare in Dorla. Speriamo ci muovia la protezione, siamo in Dorla come te Goldri. Luca Tapparetta, ci sei, Tapparetta, Rimbella, Magnabosco, Ciclino, Ciclino. Allora tu intendi a Luca, adesso deve essere a Marina ancora. Ne hanno fatto Luca tutto. C'era sempre il barracchino, era. Divano ne ha tolto tutto. Ha fatto bene, se andare a casa la vicina abbassata a casa baracchino. Ah vai, esci, te ne fai, usa a casa baracchino. Non ho fatto bene. Baracchino a casa, la mamma è buca, quando c'è parla, quando non c'è c'è la biglielucci, l'ordina a tutti. E così è. E così, così, così. Noi non te c'è bene Antonello con il microfono normale, io non lo uso mai. Secondo me sì. Anzi, se in banda laterale usassero il microfono normale, sai quanto ucciderebbe bene la gente. Ah, io uso il 60 in banda laterale, però tolgo l'amplificazione, Natalia. Uso normale, senza processore. Capito? Io con 920 tolgo il processore, esce benissimo, alla grande, sono troppo forte. Capito? No, ma esce molto bene, bello, bello paccato, bello. Nuova nuova con la radio, è rimasto così a Antonello, ti sei tragitto la nuova nuova, era la mia con la radio. Poi Valerio va tenuta molto molto bene, di venerdì scende, venerdì mattina alle 11 appena ci su, perché l'altra volta sono andato a portargli io, l'altra roba che ho venduto, adesso scende lui. Dai, anche tu non sei altro male. Se consideri, già mai capito, 50 in più, ma ta, sei andato di lusso tu. Ehi, alla grande, che quella è bella. Chiaro che, vabbè, i chiesi anche miei sono, cominciano a essere solo 430 perché Fabrizio li aveva riverniciati. Ma 140 che ho io, anche il mio, sono vecchietti, dai, però me ne frutti nulla, pronto la radio funziona bene. E infatti, poi quello mi giorno dove ti gira in balla, me li vai? Mi vai e faccio pronunciare da Roberto. In cappa. Esci in uffici. Quel grigio che si fa al tintometro, quel colore lì, esce nuova. Oggi ricordati che mi sa che me lo metta da qualche parte, se domani no, però fine settimana ti porto quel cavetto un altro lì, tanto è dentro il cassetto, bisogna che scenda in moto. E che me lo modifico? Via, intanto me non serve, assolutamente. Allora mi siede dentro l'armadio e rimane in chimica, non mi piace mettere il microfono. Lo lascio, non si sa mai che possa servire, ma c'ho gli MC60 e non me ne fotte nulla. Quel cavetto te lo do, così te lo modifichi e te lo usi tu. E K, quello uguale a quello lì ce l'ho io nel microfono. Quello che è quello, ecco lì te lo modifichi, fare connessione a quello che vuoi, capito, e ce l'hai, non c'è problema, K del Roggero. Va bene che va bene, già non si è sentito, non è uscito in macchina oggi, che lo so, 7:20. E verso le 8 deve andare lui. Alle 8 prende la compagna. Ehi, io pensavo fosse uscito a farsi un giro in macchina. E infatti, il telefono lì sempre non piglia, no? Sì, che prende, c'ho idea da adesso. Già prende. Devi telefonare. Telefonami. E aspetta un attimo, che sto entrando nel programma. Sì, che prende adesso il telefono. Sì. Allora, WhatsApp è un po' più lento, ma il telefono già prende, tutta la casa. Ah, WhatsApp non piglia. WhatsApp un po' meno, ma per internet è molto più lento, però a me mi interessava il telefono, perché mi telefonavano, cazzo, no, non rispondi mai, non ci sei mai, sei preoccupato, invece non prendeva la Vodafone, capito? Adesso c'ho Iliad, telefono squilla, prende benissimo dentro casa, prima dovevi uscire fuori in carriera, a Rugancello batte fra le frate d'inverno. Internet è un po' più lento, ma già prende, i messaggi arrivano più in ritardo, ma se telefonare invece il cago con WhatsApp, fermo prima. Ehi, Luca, bicicletta, sono rientrato ancora, sono le 7:02. Oh, Natali, ci metti il capo, conservati i soldi, ti ho procurato un 60. Se ti serve ancora, che ce l'ha Valerio, me lo deve portare. E a Senigu? 70. E K, quando dirà che me lo vai a B? Via, a un buon prezzo, è nuovo, in buona condizione. Io ho pagato 90 la macchina, mi ricordo che già B, solo che l'aveva prestato e si era dimenticato di darmelo. L'aveva prestato a Franco, sempre quello di Alghero, te ricordi a Franco di Alghero. Ehi. Ma te lo ci vediamo, se non ti capisci te lo farò. Non ci vediamo, te lo farò. È nuovo, in buone condizioni. Ehi, cazzo. No, me lo porta, te lo do e te lo prendi. A me non c'hai tutto. E infatti, così ce l'ho. C'ho il suo, là. Allora, io non ci vado più, ho fatto sacrificio, me l'ho preso un paio. Ma giù 3 più l'MD100 per il 920. Va bene così, basta, non ci occupava più nulla, andava. Io portami la verticale Natali stamattina, smontata, riconservata. Non devo gubbire, me la fotti nulla. Faccio la long wire e ce la biglia in curva. Ma Marco, che fai la situazione? Non l'hai sentito? Prima di tutto gliela dovevi chiedere a Marco, perché magari c'è l'interruzione della bobina che è staccata. Non so, ma come l'altra è quella. Non ho sentito in questi giorni, si è impegnato a fare altro. Non lo so, ma non mi interessa. Rimetto l'altra, stabile e luce. Ehi, cazzo, anda bene meta. Ma è che non siano i radiali, cazzo, a mettere 4 radiali per quella frequenza lì? Ne ha 5 Natali, uno per ogni banda. Non c'ha niente, ne è semplicissimo, è come montare la mantova. Non c'è accordo, non c'è niente, già. Infatti stazionari non ne ha nelle altre bande. 10, 15 e 20 non ne ha. E 80 non ne ha. 1 e 1 senza nulla. Cazzo, gli ufficiali di 40 metri mi gioca sul cazzo. Addirittura il 9 e 20 in automatico non accorda neanche. Guardarci con un accordatore manuale accorda. Ma in automatico mi dà HI. adesso mi do più RHI in automatico sul display, è una cosa, attacca e stacca subito, capito, non ce la fa manco accordare, stava facendo tutto, poi Bulldozer, l'uomo più forte del mondo adesso, ma infatti ne ha giù bugata e l'ho messa l'ombra, smontata e l'ho messa a posto, ma fottenuta, era giusto per noi, le altre bande va benissimo, fa tanto le proprio con Gianfranco, va bene, 10, 15 e 20 va benissimo, 40 e 80, 40 è piena stazionale, 80 è un po' più scarsa, ma 10, 15 e 20 funziona bene, ma non è giù bugata, c'è il Bidencourt, e allora Massimi, com'è? E com'è, dai, appoggiato al cavalletto, cosa vi va? Appena snocciato e pugiato così, vi stavo ascoltando un paio di minuti. Sì, io. Cosa stavo dicendo? Qua stai usando? Quello là? Sto usando l'S9. Ah, e l'altra? Quella che mi ha messo il telefono? A posto? No, l'altra me la ridurrà ancora. Avanti, Tattali per zio Massimo. Ciao Massimiliano, buonasera, ben entrato. Ciao, ciao Natali, buonasera. Allora, stavo facendo un paio di passaggini lì al 45, c'era qualche passaggino da fare, là. Ma capito, non bisogna più passare, ne manca cucchiali. Sì, perché tu adesso sei diventato anche tu un cuocuomo, l'hai capito? Dai, sarà preso, Massimiliano. Ah sì, è vero che c'è un radio, no, che devi aggiungere il tuo microfono in mano, aspetta. E vai via, beh. Eccoci qua. Bene va questa, Natali, mi ascoltate, fra. Alla grande. Va bene, allora, là. Quello là mi sono dimenticato, c'era pure l'aggio già agganciato. E quindi, che si dice? E che si dice, così. Aspetta, cambio radio anch'io, dai, passo col 430, se lo faccio andare un po'. Ehi, ehi, passa, passa. Cava, t'avevo un caso allucinante, va. Caldo. Sta uscendo, sì? Sì, sta uscendo. Che appagata, va bene. E mi dica la fattucci, un bel. E io un gioco. Va bene. Tempo suo, ma mi sembra troppo in anticipo. Sarà. E fa così domenica, me ne vado al mare, qua. Sì, conviene, ma io mi aiuto. Trascinato? Fuori, nell'erba, ho messo la sdraia nell'erba, ero sdraiato, ma non si poteva stare, ma ci metto da dentro. No, ti sto dicendo che lì a Uschi, dentro la casa, all'ora di pranzo c'erano 37 gradi. Sì, qua picchiato, forse 28-29 gli arati all'ora di punta. Vabbè, che da, c'era un fosso, quindi... Kappa. Avanti, Natali. Un attimo. Sempre vende cosa, sempre andendo. Riposati un po', Natali. Lascialo fare. Già lo so. Bisogna fare sempre, se no, guai. È un casino. Aspetta che abbasso, però. Così va meglio, là. Se no, 50 watt ci aveva fatto 30. Calda, vecchia, lascia 50, 100, 200, 300. Lasciamo 50. Ecco qua, 50 watt. Cosa è da fuggire? Già ne 30, già ne 50, è la stessa cosa, qua. E infatti il divano. No, mi sembra c'è perché negativi. Eccomi. qua, qua sogno, non l'ho messo nuovamente a 34, se non era troppo, però vabbè, stato ne a 30, ma durati 50-60. Va bene, anche così è alla grande, dai. E se non lo sfrutto troppo, il tuo è vecchietto. Io la vendo la figlia. Ehi, vabbè, roba vecchia, tutta roba vecchia abbiamo qua. Roba nuova, secondo me la roba nuova non dura 30 anni come durano quelli. Non già dura, c'è di picchi modulazione allucinante. Ma non vanno per 10. Quando la radio si dà a posto, vedi, va bene. Allora, stai usando pochi watt però. Ma a me stai dicendo? Sì. Io sto usando 2 watt della radio e una trentina modulata, mia. Il picco però, Io non vedo il picco, sì. Se vuoi bene, vai da 9 a 10. Ma va bene questa radio qua, è perfetta, va benissimo. C'ho il microgen del Tarn più 3 a metà, il microgen della radio a manetta, è perfetto, va bene. Io lo va bene, non va bene, non di più. Poi il problemino era risolto, era perché era troppo spenta, là. Quindi l'ho lasciata un po' accesa, ha risolto tutto il problema. Ok, quindi non c'è bisogno neanche di mandarla a nessuno a farla vedere, là. Sta giù di tu, era un problema, tu non la usavi, non usavo, la mia è sempre accesa. È sempre accesa, mi chiede una canale 40, adesso vedi. Oh. Vabbè, oltre un po' la truppa, la rimetto in canale 40, accesa, con le fighe in chiuso, è sempre accesa. Va bene, va bene. Va bene, perché pure la radio 220 non ti rompe le scatole, se ti capita che ti devi spostare da un'altra parte non hai bisogno di alimentatori né di nuda, capito? Attacchi e si andene. E si conferma, e si conferma. Gappa gappa. Aspetta, uso l'altro MC60 a vedere se è uguale la modulazione, se funziona bene come questo. Vai, vai, attacca a vedere. Lasciamo qua. Natalici, sì. Ehi, mi stavo misurando la glicemia, capito? Ah, vampirando ti stavi. Allora, via. Vabbè, anche quella non è fatta, Natali. L'ho fatta così. Mi è già nel caldo. Beh, buonasera a tutti. Ciao, buonasera. Buonasera, adesso non so chi ci sia. Ciao. Anche a te, Bulldozer, mi hai sentito, Natalino, poi non so se ci sia altra gente, saluto tutti, vai. Ehi, ci siamo io, Natalino, tu e Claudio, che stava cambiando il microfono, vediamo un po', Cla, ha cambiato? Ehi, ha cambiato, no, va bene? Ma va bene, l'altra mi chiamava più forte la radio. Quanto è qua, 50, questo è quello che non uso mai. Sempre 60, quindi dopo abbiamo una macchina. Ciao Gianni, buonasera. Ciao Claudio, mi hai sentito, dai. KK. Indovina con che radio stai uscendo? Con Galaxy. No. Con Royce. Eia. Mi sono confuso nel confondermi. Kappa di Roggio, no, già va bene, ottima ambulazione. Kappa, e intanto bisogna accendere, allora adesso sostituzione, usiamo questo qua. Già, ma quello là a posto? Non va? Sì, allo montinaggio. Non va? Ah, non va. Abbiamo messo tutti i finali, ma probabilmente quello che ho comprato la Fusaro non va bene. E quindi sì, ha riattivato la recessione, esce di radio, però non dà watt. Non dà watt, se non dà watt sono i finali. I finali sono nuovi, però arriva la corrente, perché a 12 volt arriva le finali, quindi adesso vediamo cosa siamo fa. Oh già, a me mi è successa la stessa cosa, uguale, precisa identica alla tua. Io li ho comprati nuovi, stessa sigla, li ho piazzati, cioè me li hanno piazzati, e la radio dava 1,5 watt. Cinesi, capito, cinesi, per risparmiare qualcosina ci ho fatto una cagata. Infatti poi li ho messi originali, ma la radio l'ho dovuta mandare in Sicilia, mi hanno messo i watt, i finali, quelli originali, la radio va. tanto già non è radio adesso. Niente. Adesso già vado con questo, poi si vedrà. Dai, troppe spese, troppe cose, già avevo speso 40 euro cazzo, per i pesi. Adesso se devo spedire solo altre 40, avete ad andare, avete a tornare, in più la riparazione, che tu mi due senza radio. A chi non la dai a Goso, a Rapido? O a Goso, a Radio Baccano, a Bobo, a mie... Che chiama chi tu, Clap, aiuta quello di Moro, Albino. Sì, Albino glielo mette a posto. Glielo metto io alla gente competente, gente che ha l'attrezzatura e che Baracchini riconosce, capito? Almeno ci spende due lire, ma almeno è tranquillo e sereno. Ma è fatto. Avete già lavoratorio, capito? L'ho già portato a aggiustare. L'hai portato come ti ho detto io? Ci ha pagato. Ma tu tanto ce l'hai, non ti cambia la vita. Ce ne hai il radio, lo lasci lì, quando è pronta te la metti, usa di una frutti, già va bene. Sta andando bene, Massimiliano, però dai, sta uscendo bene anche questo microfono. Non ti ho detto che sta andando male, Mocla? No, ma non è molto più bassa dell'altra, già va bene, dai. Mi sono messo le cuffie, ma tieni conto che qua c'ho il microfono basso, cioè c'ho il mic in basso, col 430, se ti rompongo così, 1, 2, 3, 4, 5, 3, te la giubbuccio a 3, è troppo alta così. Ah, no, non c'è bisogno di sollevare, mettila come la tua solita, là. Pompa, pompa. Allora, molto pompa. No, la sto lasciando così come sempre, la lascio stare così, a due. A me da Antonello, che antiscendere col microfono normale, vai Antonello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ma sì, col microfono normale, va. Ma non c'è amplificazione, ma è il compressore attaccato il processore. C'è il microfono normale, cosa vuoi amplificare? Il processore è attaccato, eccetera, attaccato, ma non amplifica, c'è il microfono normale. Non è il pompa sai, non è uguale 3, ma uguale 40, 140, con il microfono normale c'è così, però esce molto bene, bella chiara la modulazione. Allora, così, ecco il processore inserito, è così, è disinserito, già si nota la differenza. Adesso il processore inserito. Vedi, ma ce l'avevi staccato quando sei entrato? No, ce l'avevo inserito, ero io che ero distante dal microfono, hai capito? Insomma, adesso sono a 20 centimetri dalla bocca, con il microfono normale. Il vato è solo 30. Di lusso, perfetto, va bene. Bene, pronto, bene, sei rinato, ottima modulazione, segnale, segnalone, vabbè, stai andando con 30 riportate, 50 modulati, va bene, avanti Gianni. Ehi, ancora il veleno lo sai con la palice. Ehi, a te fresco. Ho venduto ieri stamattina a un ecco, figurati, al volo, e mi sono preso questo. Ehi, io sto scherzando, io già lo so. Sì, Antonello è uno dei pochi che ha tenuto il mio 780 10 anni, Antonello. 15 per esattezza. 15 anni, mai creato problemi con la radio, lì c'era mattissimi, Antonello. Questa è nuova, nuova, hai visto anche nuova. Ho visto già, l'unica cosa che avevo messo sono i GBP4 ottoni che... della LEM era l'unico apparecchio con il GBP. GBP use, ma ci si può fuma, ne lo sappiamo. No, questo tiene così che non per dire, però era il mio e veramente l'ha tenuto di lusso Valerio, veramente di lusso, di venerdì deve portare un 60. Venerdì deve portare 60, l'ho preparato a Franco di Alghero e gli ha restituito, così diamo anche quello, tanto io a mia anna giù 4 me l'ho tenuta. Vai Massimiliano. Sì, un secondo, io vi ascolto, però mi devo staccare un attimino il microfono, questa radio che devo un attimino aprire e devo scacciavitare, là. Sì, vai già. Sì, va, buon corso allora, siamo qua. Vabbè, ma le cose del garage le ha vendute. Via, c'era Piero Drago. Ma chi l'ha dato a Piero Drago? Via. Ma dai. Cosa sto dicendo? Comunque, stamattina ce l'ha portato via. Adesso ha detto che si attacca l'antenna, alla fine, c'è la Firenze 2, ci ha mai detto, quindi ha detto che si attacca l'antenna, gli ho dato il microfono L'M95, perfetto era. KK. Ma non mi avevo dimenticato il pelo drago, adesso entra anche Falcone, e ci studiamo. No, Falcone non l'ho visto, se avessi visto Falcone al limite qualche baracchino già gliel'avevo venduto. Già ne ho baracchini, gli avevo dato al limite il Conex 4000. Via. Falcone ci va bene, da tutte le parti si sentiva con l'apparato di Homer, ma non mi ricordo che cosa era. Ma mi sembra l'AM International. Il multimode. Lei mi sembra che c'aveva, era l'unico che mi va via di là, cioè, a parte diceva 200 cavalli era Walter Falcone, Claudio c'aveva la parecchio grande lo stesso, io ero con l'ultimo del 3, ma dopo un bel po' di tempo me l'avevo comprato. Poi io c'avevo il president in quel periodo la R7 40 canali, a parte vabbè tutti gli altri apparecchi che c'avevo, toccai eccetera eccetera, ma non era roba mia, quando me l'avevo messo la multa poi io via, se ne avevo pochi di apparecchi scritti, c'ho ancora quella multa, già te la faccio vedere qualche giorno. L'unica cosa di bello che mi ha fatto vedere era quando gli ho presentato l'FT250 con la monogazzera dietro a Piras. Dice, non è possibile che questo apparecchio sia monogatto, gli ho detto che l'ho comprato così e basta. Lo provi, è tutto certo che lo provo. Io l'ho acceso, è il marciato ancora lì, via Rizzetto, con la televisore in bianco e nero. Acceso, non ha fatto una striscia, dice, non è possibile che tu non disturbi qua. Allora, fa una cosa, fa come cavolo vuoi tu. Dice, no, la pare che te lo tiri, mi ha detto, no, non mi interessa portarmelo via. Meno male, gli ho detto, è un malogatto. Ma non le rivoltelli, no. L'ho fermato sì, era tutti i giorni sotto casa mia, faceva la scuola, faceva a controllare tutti i cibi, sai, ogni mattina veniva sotto, ogni mattina, detto, se vuoi l'invito il caffè, gli ho detto, tutti i cibi si avvenivano, tutti, c'era con me, con Andrea Maricone, o con Angelo Delfino, con il verduraio, e poi vabbè, i fratelli di Alessandro a Piero del Giorno, tutti se li ha controllati i cibi, tutti. Perché lì al bar di sotto c'era il ritrovo dei cibi. Oh, ma chi ha dato il sciattolo a Piero Drago? Eia. Dove è in voga? Allora. C'è la Firenze 2, c'è a me. Ha giocato la Firenze 2, c'è. Cazzo, bello Google, vai, ha giudizio. Adesso dice, me la ripiazzo, così almeno riesco di nuovo al baracchino. E poi mi ha trattato bene, ha detto, trattalo bene, che ci sono segnati parecchi questo. Sì, riusciamo a farlo ampliare. Speriamo che non facciamo casino, tanto quel po' che siamo rimasti. Vabbè, a me poco mi interessa, un po' che siano i buoni, ho già imparato la mano. Basta abbassare il volume e accendere un'altra. Natalino, ui, ma io, favella, già mangiato, Ehi, va bene, e tu già mangiato? Io no, non ho mangiato nulla, ho andato, ho mangiato due fettine di salsiccia. Non si mangia quella, fa male. Ma era affumicata, a me mi piace brutto. Tu non mi piace affumicare. Io vado a Nubi, e c'ho un amico, la prendo lì, capito? Buonissimi rapporti, formaggio lo prendo al caseificio a Nulfi, prendo il granandone, che è una cosa spettacolare quel formaggio. E quello che ci ha fatto maggiore è buono, non va. Ma Nulfi granandone, vado in chili, fanno lì, che ti spicchi grandi che prendevo prima, che quando lavoravo, su Maria Gatto, non ci mangiato il sughaccio. Ma se ogni tanto salgo me lo prendo uno spicchio grande, lo seleziono, è buono, come il parmigiano reggiano, ma è molto più buono pure. Massimi, dove è andato Massimiliano Budotte, più forte di Sassari? Non c'è, Occla, ce l'hai a due passi quello che vende formaggio buono, da vicino a casa tua, lì la strada vecchia di Osino all'inizio, lì sulla sinistra salendo, dove lavorava Serafino, pastore Serafino. Sono qua comunque, vi sto ascoltando, abbiamo sistemato il frequenzimetro, Occla. Hai visto? A due passi a casa mia, eh? Come faccio a sapere che a due passi a casa mia? Perché io so dove sei tu. Ah, se lo guardo, è fatto. Hai visto le antenne? No, no, lo so, me l'hanno detto più o meno dove stai. Capito? Me l'hanno detto, me l'ha detto tu, non me lo ricordo. E comunque è lì vicino, dai. Hai capito qual è? Vabbè, io non ci arrivo alla strada del Bunnare. Devo fare il giro dall'altra parte. Io sono nella piazzata, quella nuova, non nella vecchia. E già ho capito, mi pare che c'è una tenuta lì, lì lavorava Serafino. Sì, lavorava lì Serafino. Una volta siamo andati con Marco quando era piccolino, no? A prendere il formaggio. Gli ho detto devo prendere il formaggio stagionato e una forma di fresco. E Marco si è girato e gli ha detto, tu chi sei? Pastore Serafino, che ti ha fatto la faccia così? E gli ha detto, chi te l'ha detto a te questa cosa? E mio papà me l'ha detto, perché tu moduli con lui. Capito ti ho. C'erano tutti, si è baciato, andando a voce, vado a casa mia. Giù. Non ce n'è altri, non c'è da sbagliare. Ce n'è due solo di figli uguali. Una leggermente più su, una leggermente più giù. Capito? E si vedono dalla strada, quindi non c'è da sbagliare, poi si vedono anche le antenne. Vabbè, cappa. Avanti, motor pompa. Sì, già sono qua. No, no, già, lei è provato a riparare le cose, il Saturnecco. Non partiva, dai, il VAT non li dava, usciva di orario, tutto quanto, ma andava il VAT. Sì, che era cazzata quella, non ti preoccupare. Non spendi molto. C'è qualche componente che in pratica non era qua capito. Quindi non ti devi preoccupare. L'importante è che non attacchi il lineare di nuovo la prossima volta, perché quello ti ha bruciato tutto il lineare a te, ti ha fatto rientro di radiofrequenza, ti ha cribato tutto, ti ha cribato. Capito? Bisogna stare ben attenti adesso con questo cavolo di cose, di lineare che vendono. Bastano cazzate, io mi avevo bruciato il presidente Jackson così, con un bicchiere 50. E poi l'avevo regalato a uno di Sennori, e ho detto guarda, vieni tu, mandalo su, te lo fai modificare, ti fai mettere il concorso, quello che vuoi, te lo regalo, gli ho detto, gli fai cambiare il finale e tu sei a posto. E quello montava l'MRF 477 come finale, al posto di 1969. Sarebbe in pratica il corrispondente, però devi cambiargli la pilinatura. Quello che si usa in quei lineari piccolini della CTE. Occla, ma non te ne arrivano, scusate, di MotoZappa? È un po' lento WhatsApp, ma ci vediamo, fai prima a chiamarmi. Fai prima a chiamarmi. WhatsApp, internet ce l'ho ancora un po' lento. Ho chiamato a Ilia, mi ha detto che stanno sistemando il ripetitore di Osiro. Arriverà molto molto più forte, capito? Stanno mettendo 5 giga, capito? E quindi arriverà molto più forte. Ah, ok, perché ti ho mandato un messaggio vocale 5-10 minuti fa e ancora non ti ha rivisto. Va bene, fai prima di aiuto a telefonarmi, tanto adesso prende bene il telefono. Prende bene. Ascolta Gianni, è che Speranza ti ha dato quello là? Subito, no? No, non mi ha detto lui, mi ha detto non certo domani, ha detto lo cerca di farlo subito, ma è te non certo domani. Sì, vabbè, l'importante che sia lì, capito? L'importante sia lì, e ci devo passare anch'io perché devo portarle un TV, un TV, uno smart, che c'ho l'altro vecchio che i colori stanno a mandare a farsi fottere. E devo portare a... te lo lascio, me lo faccio mettere a posto e mi serve qua con la cameretta per la rame partite. Capito. Va bene. Cosa hai detto, Massimiliano? Niente, ho detto che ti ho mandato un messaggio, non mi dice niente fa, basta. Qua non ho detto niente. No, niente, là, c'era la spinetta, diciamo, del frequenzimetro, sicuramente c'era quei puntali, qualche di uno si è dato, l'ho tolto, l'ho pulito con un pennellino, gli ho entrato due o tre volte, l'ho attaccato e non si accendeva più il frequenzimetro. Quindi aspetta, la radio riaccesa e adesso sembra, infatti non gli ho messo né viti né nulla, la sto lasciando così, dai, diciamo, gli ho messo giusto il coperchio e vediamo un po' se... Ma sicuramente abbiamo visto che c'era un puntale mezzo ossidato, sicuramente era quello là. Ma col pennellino pulisci la bicicletta, col pennellino non si puliscono quei puntali, ma si vede. Di lisciare, decidi. Se ne esce appena appena di anche le cose del pennellino stesso, non ti fa contatto. Quello va pulito sempre con lo spray, oppure con la trenina. Con la trenina metti appena appena la trenina in un bicchierino, metti quella spinettina dentro, la togli, la soffi e la torni a infilare. Vai tranquillo che funziona sempre. Ma col pennellino quelle cose non si puliscono mai. È molto più assoluto. Poi se si stacca un filo del pennellino, ti va in mezzo ai contatti e non ti fa contatto. Sicuramente è quello lì. No, no, se l'hai messa che si è accesa, no. Lui va del bimondo, va già funziona bene. E secondo te non la giubbotto la trenellina? Tanto ce l'ho in una tazzina di vetro. Appena appena tolto, pulito, è a posto adesso, là. KK. Ma di quale radio la si vede? Nel Saturneco. In poche parole io accendevo la radio, no? Si accendeva il frequenzimetro normale nel canale Keri, dopo che modulavi 5-10 minuti si metteva a zero il frequenzimetro. Non è che si spegneva, si metteva proprio solo uno zero tutto a destra, quindi succedeva che dava un colpetto sul case e si rimetteva a posto. Capito? Quindi sicuramente il contatto lì. Allora ho tolto le viti, ho tolto la spinetta, gliel'ho rimessa, è tutto a posto, l'ho pulita, gliel'ho rimessa. E io faccio contatto, magari c'è un po' di usi, dov'è? E allora? E magari appena appena toccherò tocca e facciamo questa cosa qua. Infatti non le ho messo né maniglia né nulla, adesso lo lascio così, vediamo un po' se lo rifà, se no le tolgo l'altra di spinetta. E voglia che si sia fatto tutte e due, prima di chiudere. Mia mano la giù ho già, i loghi sopra bisogna di 150 gradi. Non vedo caldo, no, questo si sta bene, perché c'è la parte dell'ombra, nella casa che praticamente... Adesso il sole è dalla parte della cucina, qua in camera da letto è la parte dell'ombra. Sempre in camera da letto è questo Gianni. Sono sdraiato perché mi fa male la gamba, Nattali, non è banuda, se no avrei preferito andarmene a farmi un giro a piedi, guarda, sinceramente. Per avere il dolore che ho la gamba preferivo andarmene a farmi un giro a piedi. Sono i due subito questo femore. Oh, nel 45 c'è il chicco del Bruxelles a rivendere, Santiago lo fa 10. Di dov'è? Bruxelles. Ah. Attaccano la linea Roni. Mi pare che lì meno di qua si possono attaccare. Boh, chi è che vuole entrare? Avanti? Vabbè. Vabbè. Riocla, com'è? Ma dove Ciccio Bello che sta chiamando al 45 c'è? Ciccio Bello abita, lui è napoletano, ha una pizzeria lì, capito? E abita lì a Coso, a Bruxelles. È un lugare di posto, ho girato nel frattempo. Perché a me più di 9 mi arrivo. Qua è 9:10, va più gonto. Vabbè, tu sei più, sono male. Zona bassa, zona alta, sì. è arrivato? Ah, mi, in questo momento proprio mi è arrivato. Ehi, sono andato per le mancere e ti ho risposto. Era arrivato, io non l'avevo sentito. Non sei uscito, Gianni? Sì, sono andato a accompagnare la lavoro e basta, e poi me ne sono tornato. No, ma non ci vai a prendere alle 8 oggi? Cosa? Non ci vai a prenderla alle 8 oggi? Sì, che ci vado, è certo che ci vado. Allora, beh, da Dio, sono già quasi meno 20. Sì, ce la faccio, là. Sono fino alla maglietta, un paio di volte, e via, fatto. Perché sono in casa.